Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Cruciani. Ma come da Cruciani? Sì, perché ormai se io dico faccio un programma Radio 24, sì, mi chiedono: ma Radio 24 è quella di Cruciani? E vabbè, così. Per cui dovrebbe essere Radio Cruciani. No, vabbè. Poi mi chiedo: ma conosci Cruciani? E da lì il passo in breve. Io ascolto sempre Cruciani. Sì, perché dice: vabbè, allora ascolta anche me. Sempre Cruciani. Invece no. Vabbè, allora un saluto da Cruciani e un saluto da Cruciani. Ecco, siamo i due Cruciani, va bene. E adesso perché mi guardi così? Ma non cosa? Sono Cruciani, sono K, tu sei Drago. Suora, suora, impazzito, impazzito dai numeri. Ma, no, io ho paura che tu mi faccia cominciare, no, le cose, a parte Cruciani, mi fai cominciare, io non so come cominciare, perché la scaletta ce l'hai tu, quindi... Per forza, la scrivo io la scaletta. E allora, senza scaletta come faccio? Ma infatti comincio io come al solito. Allora, oggi si parla di spot televisivi. Oh, meraviglia. Spot televisivi che indicano il grado di regressione di questo paese. Ma prima di andare al punto, ascoltiamo un'importante dichiarazione dell'insigne giurista Stefano Rodotà, intervistato pochi giorni fa. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Ma era Rodotà? Ma come parli? Come è difficile dire, ma era Rodotà. Sì, era Rodotà, hai sentito in che stato? Ormai le cose vanno così, bisogna stare attenti che la regressione colpisce anche i migliori. Dunque, torniamo agli spot. Dai, spot in cui i protagonisti sono animali. Talpe, lama e gorilla, a seconda dei prodotti da pubblicizzare, che sono network televisivi e nel caso del gorilla un noto aperitivo arranciato. Vabbè, adesso tra l'altro non sono gli unici animali della pubblicità. Vabbè, può darsi, gli animali ispirano simpatia, no? È facile. Sì, però, strano. Perché siamo di nuovo lì al pasticcio senza età, dove il target è un pubblico adulto, ma la pubblicità è fatta per piacere dei bambini. Bisogna decidersi. Se la talpa di Fiorello è stata studiata e realizzata per far ridere me, comincerei a preoccuparmi. Che poi tra l'altro quella talpa lì è oggetto di grandi manovre anche a livello di servizi segreti. Addirittura i servizi segreti. Drago, la perché talpa non di si... Ma sì, la talpa di Fiorello, perché scusa, prova a immaginare. Sì. Dicono, cioè fanno trapelare che si tratti di una talpa meccanica no? Di può darsi. Ma no, perché nei film adesso ci sono questi animali. Ma tu non sai neanche qui nei film ci sono. Che film? Cosa dici? Basta zitto. Il problema segreti. È che dentro la talpa che non è meccanica ci fosse, che ne so, un bambino. Che la, sarebbe sfruttamento del lavoro minorile. Beh, sì, non può essere un se bambino. Se ci fosse un nano dentro, o se ci fosse un lillipuziano, poi a vederlo farebbe un po' impressione rispetto alla talpa. E quindi non funzionerebbe come testimonial, crollerebbe tutta la campagna pubblicitaria, sarebbe un disastro. Ma cosa c'entrano i servizi segreti, scusa? Come cosa c'entrano, Drago? Di cosa stiamo parlando? Di una talpa. La talpa, no? C'è sempre la talpa. Il lama invece, è vero, il lama che c'è nella pubblicità, quello che sputa da mendola. Sì, vabbè, quello però è un lavoro per la protezione animali, devo dire. Ma è il lama che sputa da mendola, non viceversa. Appunto, la protezione animali per la mendola. Solo i bambini pestano i piedi, strillano per rifiutare la realtà e dicono che è colpa della strega, agli adulti non è consentito. Stop your feet! Bambino Alberto, ma che faccia hai? Sono disperato. La Madonna, cos'è successo? Dai. Vorrei vedere voi. Ma cosa? Se vi succedesse quello che è successo a me. Anzi, quello che sta per succedere. Sì. Perché non è ancora successo. Ho capito. Però mi hanno detto che succederà. E quando sarà successo? Ma no, ma basta, dai, non si capisce niente, cosa stai dicendo? Mi nascerà un fratellino o una sorellina. Ah, dai, ma è una notizia bellissima. Bravo, bambino Alburghi, ci vediamo Alburghi dopo, dai, festeggiamo Alburghi. Alburghi ci verrai anche. Ma poi se mi beccano i miei genitori e mi riempiono di botte. Ma no, addirittura. No, ma loro sono per lo slow food, non per il fast food. Logico, però a parte il Burghi, che non esiste più. Torniamo a bomba allora. Ecco, bravo, torniamo a bomba. Quindi tua mamma aspetta un bambino. Già, perché mi è nata. Ma perché? Sei geloso come tutti i bambini? Ma no! forse sì. Vabbè, dai, normale. Comunque, dai, tu sei già abbastanza grande, ormai non devi mica sempre stare con la mamma. Adesso che nascerà il fratellino, magari starai un po' di più con tuo papà, eh? Col sì, papà. Ma è proprio quello che non mi va. Ma come? Ma dai, non vuoi stare con tuo padre? Perché è troppo severo, forse. Sì. Ma no, io non voglio che ci sia uno più piccolo di me. Ma caro Alberto, su quello non ci puoi proprio fare niente. È la ruota della vita che gira, no? Ma quale ruota che gira? Sono le mie palle che girano. Ma adesso... E anche il conto in banca gira, fuori di parolacciometro. Comunque, oi, torniamo a bomba. Bravo, torniamo a bomba, dai. Allora, io stavo così bene a essere il fratello più piccolo. Adesso invece tra poco non lo sarò più. Io non voglio, cioè non si può fare in modo che... Cioè, come possiamo fare? Possiamo chi? Cioè, vuoi coinvolgerci in un crimine ai danni del tuo fratellino? Non ho capito. Guarda che non siamo mica Erika e Omar. Chi? No, niente, lascia perdere. Omar o Omar? Omar. Beh, comunque qualcosa dobbiamo fare, dai. Io non posso fare a meno di essere il più piccolo della famiglia. Vabbè, dai. Perché è una condizione, è troppo comoda. Ti rassegni, dai, sfrutti il piede rotto finché ce l'hai rotto e ti godi questi ultimi mesi di privilegio di mamma, l'acqua, quelle robe lì. Poi ci sarà un bel bebè urlante che si prenderà tutte le attenzioni e per te sarà finita. Pazienza. Sì. Ma no, io non voglio così! No, non voglio! No, stai attento. Battere il piede che è rotto, cosa fai? Non era così intelligente, sì, appunto, aia, piede ingessato. Vabbè. Ma siete voi che mi fate venire i nervi. Adesso come faccio? Non sarai più il piccolino della famiglia, però non sarai neppure il più grande, quindi. Cioè come? E se c'è da punire qualcuno, i tuoi continueranno a punire il più grande. È vero, bro. E quindi tu sei il sicuro, no? E non solo. Cosa? Tra pochi anni avrai un fratellino più piccolo che potrai vessare e torturare a tuo piacimento, quindi... La cosa migliore di quella che tu pensavi. Ma non ci avevo pensato, ma voi mi avete salvato la giornata. Vedi? Sì, perché essere il fratello di mezzo, a fin fine, è la cosa migliore che mi poteva capitare. Ma certo. Io ho detto fra pochi anni però, perché finché tuo fratellino o tua sorellina saranno piccoli, dovrai sopportare di essere considerato un po' più grande e quindi di essere un po' abbandonato dai tuoi in qualche maniera. Così. Ma io non sono grande. Ormai sei grande. Quando mi dicono così mi viene da piangere. Capisco, però è la ruota della vita che gira. Ma basta con sta ruota che gira. Basta, dai. Mi hai fatto girare le palle no, tu. Ma bambino Alberto. Ma porca puttana. Poi c'è un altro spot che mi fa riflettere ed è quello di quel gioco in 3D in cui si vedono tutti quelli che giocano e si divertono e fanno le facce strane. È il Nintendo 3DS, famosissimo. Io non ne so niente, ho 44 anni, scusa, quindi non rientro di sicuro nel target per vendere quel genere di cose lì. È pieno di adulti che vanno pazzi per il Nintendo 3DS. Sai che l'ho capito guardando lo spot? Infatti c'è questa galleria di giocatori e ci fosse un bambino, uno, niente. Tutta una sfilza di trentenni che dovrebbero essere disperati, precari, senza casa, senza contributi, senza ferie pagate, senza futuro. Invece sono lì che giocano come dei cretini alla... Ma come? Nintendo 3DS. Nintendo 3DS, dai, che tra l'altro poi nella pubblicità non te lo fa manco vedere sto 3D. Per forza. Perché? Ma perché te lo fanno vedere in TV, dovresti avere la TV in 3D, no? Ah, cioè devo comprarmi una TV in 3D per poi giocare con il Nintendo 3DS. No, per vedere la pubblicità, non per giocare. Ma per vedere solo quella pubblicità lì? Sì. Ma non fan vedere nemmeno il gioco, quindi vedrei in 3D la faccia di un trentenne precario. E lo vedi in 3D, già che ci sei, magari presti 50 euro. In 3D. Ciao precario che vivi appeso a un filo, se perderai il lavoro ti prenderemo in giro. Torniamo domani. Devi dare l'indirizzo mail. No. Chiedo asilo a radio24.it. Non fateci caso. È così. Torniamo domani. Oh yeah.